ringrazio soprattutto ecco Bruno Donante, a cui do il benvenuto e siamo molto curiosi del suo libro che ha già riscosso un certo successo. Perché mi dica che livello viene da 1 a 10 quando iniziamo subito a quantificare, va bene? Dopo le faccio la statistica. Ma sa che noi siamo chiamati anche a produrre dei dati, ma io sono lì in trepida attesa dei dati. No, vi ringrazio tantissimo, rientra sempre tutto questo nell'ordine di iniziative che questa biblioteca, un po' piccola, un po' nascosta, ma con grandi ambizioni nel polo bibliotecario di occupare degli spazi diversi e un po' più anche, diciamo così, di più ampio respiro, ma insomma nel frattempo in questi anni ci siamo dedicati alla raccolta locale e stiamo muovendo anche i primi passi verso una raccolta più ampia di saggistica, quindi che coinvolga e riesca a fotografare, a dare delle informazioni, dei documenti per quanto riguarda tutto lo scibile. Se date un'occhiata al nostro sito internet e al nostro catalogo online vi farete un'idea, digitando i vari argomenti, di quello che possiamo offrire in questo momento. Comunque abbiamo circa 75.000 volumi catalogati e altri tanti 30.000 che sono quelli che l'MLM, dividendo un po' quello che è attuale e un po' quello che ci portiamo dietro da alcune biblioteche d'autore che abbiamo ereditato, cerchiamo di catalogare quotidianamente. Sulle sedie lasciamo sempre un piccolo opuscolo che riassume i primi 10 anni della nostra attività e che dà un'idea dei servizi che possiamo erogare. Un modulo per l'iscrizione, perché chiediamo così alle persone che ci scoprono di volersi iscrivere, è una semplice così manovra per accedere poi a dei servizi gratuiti di questa biblioteca, tra i quali questa sera è uno scoop, questa ne approfitto dell'occasione, iniziamo a fornire da oggi praticamente 1900 riviste online in 50 e più lingue, per cui se vi iscrivete alla biblioteca noi vi possiamo accreditare una password e anche da casa gratuitamente potete leggere queste riviste e consultarle. Ecco, che dire, a parte i saluti del nostro assessore Tomasini, che forse riuscirà a passare questa sera personalmente, io vi invito a ritornare a leggere i libri, a leggere in particolar modo il libro di Bruno Durante, che è ospite stasera della nostra biblioteca, e possibilmente tornare a trovarci e a vedere e ascoltare quello che sono i servizi che noi mettiamo a disposizione. Grazie e buona serata. Grazie Valeria, grazie a Bruno per aver scritto questo libro e per essere qui, e soprattutto grazie a voi che siete venuti a sentirne alcuni assaggi, e grazie anticipatamente per chi deciderà di comperarlo. Scrivere un libro non è un'impresa facile, l'idea così romantica di uno che si mette lì e preso dall'estro poetico, letterario, scrive, è piuttosto appunto un'idea romantica, non veritiera. In realtà credo che questo potrei confermare come un lavoro di fatica anche. Confermo. Io voglio solamente esprimere un concetto iniziando questa serata, poi vi proporremo degli assaggi di lettura, perché questa è la cosa più importante, al di là di quello che diciamo noi, quello che c'è scritto qui dentro e quello che anche voi potete leggere. La cosa che a me personalmente preme molto sottolineare è che questo libro, a parte le sue qualità anche letterarie, sulle quali poi ci soffermeremo, però si inserisce un po' in una tendenza che si è molto fatta sentire negli ultimi anni e che Valeria stessa ne ha più volte confermato come dirigente bibliotecaria, e cioè c'è un sacco di gente, ci sono un sacco di persone, in particolare ci sono un sacco di italiani che scrivono di questa terra, su questa terra. E questo secondo me è un processo da accogliere molto molto positivamente, da incoraggiare e da sostenere, perché diciamo così che il processo di mettere radici in un posto, di sentirsi a casa in un posto, di abitare fino in fondo in un posto, di vivere fino in fondo, di conoscere fino in fondo un posto, è un processo che passa anche attraverso l'elaborazione letteraria della propria esperienza. E se posso permettermi un'osservazione critica, non so Bruno se tu la condividi, però abbiamo alle spalle, per fortuna abbiamo alle spalle, un lungo periodo, noi italiani di questa terra, in cui questa terra l'abbiamo un po' snobbata, in cui questa terra l'abbiamo un po' considerata un po' troppo velocemente, un po' troppo approssimativamente, forse attraverso gli occhiali delle diverse ideologie alle quali ci sentiamo vicini, però le particolarità di questa terra, la sua gente, il suo dialetto, le sue particolarità geografiche, le sue montagne, le sue valli, i suoi colori, i suoi sapori, tutto questo secondo me lo abbiamo, noi parlo della comunità italiana, un po' anche colpevolmente trascurato, e da alcuni anni è invece così in atto un processo di recupero che io personalmente vedo con grande favore e nel quale si inserisce anche questo libro, La valigia del doganiere, di Bruno Durante. Bruno non è la prima cosa che ha scritto, però se non sbaglio, Bruno, le altre cose che hai scritto c'entravano poco o meno con l'Alto Adige, giusto? No, niente. Per niente? Niente. C'entravano per niente? C'entrava l'America, c'entrava la terre più esotiche. Terre più esotiche, c'entrava il tuo nostro meridione, diciamo così. Però l'Alto Adige è poco o niente. E quindi va bene, quindi guardiamo più da vicino, con più attenzione, anche attraverso chiavi letterarie, immagini letterarie, elaborazioni letterarie, il posto in cui viviamo, perché questo è il posto dove siamo, è il posto dove è, direi, un obbligo anche così morale, spendere la miglior parte di se stessi, insomma, spendere le proprie energie per cercare di lasciarlo un po' meno peggiore, diciamo così, di come l'abbiamo trovato. Siamo d'accordo su questo? Come no, certo, assolutamente. Ecco, e passando adesso al libro, l'arrivo, diciamo subito che l'arrivo di Bruno Durante qui in Alto Adige, precisamente a Fortezza, nel 68, 2 dicembre. 2 dicembre 1968, certe date non si dimenticano, è stato un arrivo abbastanza scioccante, abbastanza traumatizzante o estraniante, potremmo dire, come dalle pagine che ora ci leggerai, si evince. Io inizierei proprio, Bruno, con il primo capitolo del libro, L'arrivo. La folata gelida di neve non molla. Mi insegue rabbiosa nel bar, la valigia piantata di traverso che non vuole saperne rientrare. Chiudere la porta, mi urlò un nevrastenico da dentro. Figlio di puttana, ringhio fra i denti sbattendomela alle spalle. In un amen il bianco mantello e piscio di cane ai miei piedi. La tormenta ormai fuori continua a ruggire sui vetri. Sono salvo. Non bastasse il guasto al riscaldamento, Sfiga ha voluto che la carrozza fosse la prima del lunghissimo convoglio destinazione Germania. Ha sorpassato le luci della stazione, ogni pensierina utile, l'ultimo marciapiedi. È andata a spegnersi nella tundra siberiana, sibilando proteste e straziando al frenatore. Roba da spaccare i cuori e timpani, più duri persino. Là mi aspetto un salto di mezzo metro nella neve affettata da scuri grovigli di binari. In balie del turbine, atomi scissi di ghiaccio si accaniscono vigliacchi. Una decina di minuti buoni quando dura la traversata dell'inferno glaciale, fino alla lucina che immagino sia il bar. Un'eternità. Chiudere la porta, abbaia il bastardo. Ma vaffan. Benvenuto, straniero, che arrivi dalla mite riviera ligure, il bianco impermeabilino a fior di culo, le brache fighette di velluto verde e le scarpe di capretto buone per la promenade des Anglais. Sei arrivato al Polo Nord, a Novosibirsk, a un diavolo di posto che qualcuno ha avuto il genio di chiamare Fortezza. sacramento a leggere quel nome Loffio sul tabellone. Paese fatto per ominidi neandertaliani, ma sicuro, non per mollaccioni sapiens sapiens come me. In realtà scoprirò il giorno dopo che si tratta di una banale traduzione dal tedesco. Franzensfeste, fortezza di Franz, Francesco I d'Asburgo, cioè imperatore e committente della livida fortificazione ottocentesca appollaiata sulla strettoia delle valle a destra del fiume Sarco. E poi scoprirò che Franzensfeste è anche il nome tedesco del paese, ovvio. Già, perché qui vige il bilinguismo e ogni cosa di pubblico interesse va indicata in italiano e tedesco. Fortezza, Franzensfeste, stazione, Bahnhof, treno, Zug, eccetera, eccetera. Lo prescrivono le rigide norme dell'autonomia provinciale, pare, e guai a sgarrare. Il caldo del bar è una puzza stantia di vino sposata a quella di un cesso frequentato da vecchi ubriaconi, sono uno shock. Barcollo. Il punch al mandarino incendia la gola come miccia esplosiva, la vampata monta alla testa. Mi siedo in tempo per non fare la figuraccia di svenire come una donnicciola. Certo, gli sarebbe fregato niente a nessuno. Quaccio rubizi ciondolano inanimati ad un tavolino. Fissano ebete, un mondo tutto loro nelle ultime gocce di rosso sul fondo della bottiglia. Entità metafisiche quasi. Altri due giocano a carte, nasi gonfi, butterati di ola volta. Disturbato dal mio punch, il barista è tornato a guardarsi la partita alla TV. È di spirito malmostoso l'uomo. Mi risponde scazzato quando gli chiede di un albergo, appena fuori a sinistra, rogna. È chiaramente italiano, veneto, un balengo. Un ciocco dei quattro mi farfuglia qualcosa. Vorrebbe aiutarmi, credo, con qualche indicazione più precisa, solo che non riesce a mettere in fila neppure due parole comprensibili in metafisico. Ma forse è che biasci con detescaccio bastardo e avvinazzato. Stremato dallo sforzo, se ne torna buono nel vuoto irrimediabile della bottiglia. Io, per la verità, piuttosto che affrontare di nuovo la grande glaciazione, resterei anche qui su una panca con i catatonici e il puzzo di cesso. Ma a mezzanotte si chiude, tutti raus, fuori. Col coraggio della disperazione mi rituffo nella tormenta, valigia al guinzaglio. Collaborativa meno che mai, la cagna fa capriole, si impenna, si impunta sulla neve. Gli aghi di ghiaccio mi flagellano spietati, perforano la stenda divisa di Vierasca, penetrano ossa butirose. L'albergo è a pochi passi, un'antica stazione per il cambio dei cavalli. Il nome Post è scritto a caratteri gotici sul portale. Artisticamente decorata, l'insegna in ferro battuto porta al centro il corno ricurvo da postiglione. Tutto chiaro, Posta. L'albergatore, dal forte accento tedesco, ha il corpo a forma di pera, occhi all'infuori, tiroidee, ma è gentile. In un italiano storpio mi assegna una camera al secondo piano, ma la valigia su manco per finta. Faccio in tempo a richiudere la porta e sono già buttato come un cencio sul letto di legno. Lo stanzone è lindo, tutto rivestito di cirmolo. Il caldo mi avvolge come un vapore soporifero, mi fa scordare che non mangio dalla mattina. Sto scivolando lentamente nel sonno. Cerco a tastoni il lenzuolo per coprirmi, niente. Di lenzuole coperte nessuna traccia, porca miseria. Ma scendere giù dall'albergatore non se ne parla. Nel dormiveglio vedo ai piedi del letto un saccone piegato in due, moscio, senza anime, che mi sfotte. Più di là che di qua, lo stendo e mi ci accuccio sopra come in un nido di piume. È un nido di piume. Si richiude su di me in un tenero abbraccio. La mattina. Mancavano coperte e lenzuole di calloste sulle mie. Ho dormito mezzo scoperto su un sacco. Qui non osa far lui sulle sue. Basti avanza il piumino. Federbet. Non sacco. Ma bisogna dormirci unten, non oben. Tanto per dovere di ospitalità, ridacchia perfido. Siamo in Südtirol, mein Herr. La colazione è pronta. Incasso da fesso. Casomai mi fossi scordato di essere approdata a Franzensfeste su Tirolo, Fortezza Alto Adige, come dicono gli italiani, basta un caffè tisico che sa di cicoria a ricordarvelo. Ma la torta di mele divina e le marmellate di mirtilli rossi e neri sono una goduria. L'oste mi guarda in tralice della cucina, me ne frego e ne scarico quantità industriale sui panini imburrati. Vendetta assai vile. quanto basta per addolcire lo scorno del piovino. Così impara lui e il suo Federbet del cacchio. Non so ancora quanto resta, dico al campione, le farò sapere più tardi. Gut, bene, risponde, danke schön. E già 4 o 5 parole del mio miserabile tedesco le ho risciacquate. Bene, questo è l'arrivo a Fortezza, come ci ha detto Bruno, il 2 dicembre 1968. Freddo, vento, puzza, una lingua che non capisco. Per la verità, tu Bruno dici, io a queste cose sono molto attento, un tedescaccio bastardo e avvinazzato. Però tu hai scritto poesie nel tuo dialetto. Bastante. Se io dico del tuo dialetto che è un dialettaccio, un italianaccio bastardo e avvinazzato, tu che dici? Mi offendo. E allora perché dai del tedescaccio bastardo e avvinazzato al dialetto degli altri? No, perché quello era ubriaco. Un tedescaccio bastardo e avvinazzato. Ma forse è che biascica un tedescaccio. Ma scusa, io vengo dall'Italia, dal sud. Conosco 4 parole di tedesco, quelle 4 sono di Hochdeutsch. Sento una lingua che non è Hochdeutsch. Sì. Non posso dirarci che è un tedescaccio bastardo, è avvinazzato. Sì, però se uno dice della tua lingua, poi ci arriviamo, del suo dialetto, del dialetto dei suoi, che tu usi molto volentieri anche nel libro, che è un italianaccio bastardo e avvinazzato, o immalinconito, o che ne... come ci rimani? Male. Male, allora perché agli altri lo dici? Perché la letteratura è letteratura. Vabbè, accettiamolo. Comunque no, volevo dire... Perché quando è arrivato non conosceva ancora. Che era un bastardo avvinazzato. Non lo conosceva, ma questa, se vuoi, è un aggravante. Non conosco una cosa e subito. Ma tu sei il mio presentatore o un tignoso bastardo avvinazzato? E comunque era uno dei pregiudizi che c'è nella valigia. È uno dei pregiudizi che c'è nella valigia. Esatto, lì volevo arrivare. No, infatti. Però volevo chiedere a Bruno, a parte queste pagine molto belle e coinvolgenti, voglio dire, è stato davvero così traumatico il tuo arrivo? Sì, o è un'elaborazione letteraria? No, non c'è niente di elaborato. Poi l'ho reso chiaramente con il linguaggio che ritengo mio, insomma, che l'ho colorito, ma in effetti la realtà è stata quella. Mm-hmm. Poi se tu conosci Fortezza, c'è qualche fortezzino qui, non si offenda, ma se conosci Fortezza alle 9:30, cioè arriva alle 9:30 di sera, cioè nella solitudine più assoluta, entri in quel barraccio della stazione piena di vecchietti ubriachi, ma non lo dico in senso offensivo, lo dico come realtà di fatto, insomma, e ti senti accogliere con chiudere la porta, una filatura per te. Sì, l'arrivo è stato un po' troppo. L'arrivo è stato effettivamente... No, mi è venuto in mente questa cosa degli avvinazzati, perché c'è quel famoso verso della canzone di De André, 4 pensionati, una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, 4 pensionati, mezzo avvinazzati a tavolino. Però è più... c'è più calore, perché lui poi forse parla della sua Genova, giusto? Allora, diciamo così, una piccola conclusione posso trarla. Quello che non si conosce, quello che non conosciamo, tendiamo poi immediatamente a, come dire, offenderlo, non che tu, però a connotarlo negativamente, ecco, questo... Svalorizzare. È un modo per difendersi a volte. Ma chi ti aveva attaccato? No, ovviamente la propria debolezza. Ti aveva attaccato qualcuno? Cioè, uno arriva. No, non va bene. E lui, siccome lui è nativo, è nato qui, ovviamente ha elaborato già dall'inizio il suo essere qui. Probabilmente non può comprendere l'impatto di uno che arriva dal profondo sud. È pieno di pregiudizi, con la valigia, lo dico esplicitamente, con una valigia piena di pregiudizi, di fronte a questa scena che ti si presenta, cioè tu stai arrivando in un mondo nuovo, misterioso, anche ostile, ma ostile già nella rappresentazione fisica, cioè non abituale a cui la tua visione del mondo è abituata, ovviamente è una reazione abnorme, stupida, insomma, vuoi che te lo dica? Mi serve questa cosa perché io penso, poi vorrei parlare anche di questo, però io penso che, dicevo prima, il riflettere sulla realtà in forma di astratta, quindi di saggistica, oppure in forma più emotiva, letteraria, ispirata, ecco, sono sempre dei processi di elaborazione e quindi poco male o nulla di male che questo sentimento ci sia stato. Il fatto positivo è invece che Bruno non si è, diciamo così, che questo sentimento di avversione, questo sentimento di, diciamo pure, ripulsa, non l'ha mantenuto, non l'ha coltivato, non ci si è attaccato, ma lo ha forse smontato attraverso l'esperienza, attraverso soprattutto la conoscenza di altri, attraverso il contatto con questi altri che non si sapeva dove collocare. Qualcosa è cambiato e abbastanza presto nel racconto. Io non lo definirei propriamente un romanzo, sono diversi quadri di un'esistenza di quasi 50 anni passati qui. Abbastanza presto però in questa rassegna, in questa elaborazione, Bruno si accorge che non è poi così netto e definito e inscalfibile ciò che separa i due gruppi, chi parla italiano, chi parla tedesco. Ecco, ci sono, dice Bruno, e la sua esperienza e la sua vita, insomma, gliele fa incontrare, ci sono delle traditrici, cioè delle persone, nella fattispecie donne, che tradiscono questo obbligo di appartenere esclusivamente ad un gruppo e avversare o mettersi in contrapposizione all'altro. E è facile capire dalle parole che ora sentiremo che c'è una chiave universale che permette di aprire questa porta, di infrangere questo muro, e questa chiave è il sentimento, il trasporto, l'amore, l'interesse per un'altra persona. Sono andato molto lontano? No. Perché? Allora, traditrici. Sì, traditrici segue gli altri capitoli dopo il primo che ho letto, dove assieme a quell'impatto un po' così superficiale, pregiudiziale, c'è anche la scoperta del noi e loro, io arrivo lì e scopro che noi siamo noi e loro sono loro, cioè i tedeschi loro, e che c'è una sorta di barriera di incomunicabilità che è difficile da scalfire in un primo momento, insomma. Se non che noto anche una cosa, che gli uomini sono lì belligeranti con il fucile puntato, le donne no. Anche se sono donne che bevono vino, le donne sul tirolesi bevono vino, e questa è un'altra cosa, che io appena arrivato vedo delle donne sedute sole al bar che bevono vino. Oh cacchio, dico, qui sono arrivati in un posto veramente, in un paradiso terrestre, quindi le donne che bevono vino per loro vocazione sono destinate a uno sfracello da parte di noi esuberanti terroni che arriviamo da sotto. E queste donne che bevono vino, ma anche quelle che non lo bevono ovviamente, scopro che sono traditrici di questa legge non scritta della incomunicabilità fra i gruppi. Traditrici, sono loro che tradiscono la logica della separazione. Solo le ragazze hanno il coraggio di trasgredire la legge non scritta della separazione. Come sempre, sono le donne a rompere il tabù dello straniero, a oltrepassare il confine, a fare l'amore e non la guerra. I maschi e la loro insensata voglia di menare le mani. Lisistrata e compagna gli negarono il letto ai bellicosi mariti se non la piantavano col gioco delle armi. Armate le lance per l'amore, non per la guerra, gli dissero chiaro e tondo, altrimenti ve la scordate. Il letto non è un sollazzo fra una battaglia e l'altra, tanto più che al ritorno dalla pugna siete tanti straccetti al letto. Più o meno così gli dissero le altere donne ateniesi agli allocchiti guerrieri dagli elmi piumati, Lisistrata, colei che scioglie gli eserciti. Mica come quella stolida di Penelope, 20 anni ad aspettare il marito eroe che giocava a fare il furbo con un cavallo di legno. Lei a tessera la tela con tutti quei giovani proci infoiati in giro e lui Ulisse che se la spassava nella sua tenda con le leggiadre schiave troiane. E poi Circe, Calipso, Nausica, scaltro l'Ulisse, altro che. 20 anni senza in bianco la Penelope, tessi e stessi, una palla, i capelli ingrigiti, il letto vuoto, le ragnatele a custodire la sua virtù come una cintura di castità. E per chi poi quella guerra insensata che infinita addusse lutta agli Achei, molto anzitempo all'orco generose travolse alme d'eroi e di cani e di augelli, orrido pasto l'ossalmi abbandonò? Per quella sgualdrinella di Elena che aveva cornificato il marito Menelao, un re mezzasega, sembra per carità, sempre attaccata al gonnellino del fratello maggiore Agamennone, ma fuggire con un debosciato gigolò, quel cagasotto di Paride, che troiata. Penelope la fedele, il fedele cano e Argo, una saponata strappalacrime che non mi è mai piaciuta. Qui da noi, quando scoppia l'amore col nemico, le ragazze non stanno a pensarci. Si innamorano o non si innamorano come le altre, secondo sentimento chimica, non in base alla carta d'identità. E se ne fregano se sono segnate a dito come puttane. Se potessero, gli uomini le raperebbero a zero per collaborazionismo. Loro, i signori della guerra dei 100 anni. Per non dire di quelle che hanno sfidato il divieto assoluto di sposare un italiano, mettendo in conto l'isolamento e la rottura con la famiglia. Il tradimento del gruppo non è contemplato. Se avviene per amore, è ancora peggio. Amore per il nemico? Un ossimoro. Povera Trudi della Val di Witzfichtel. Boss! È in italiana! Schäm dich! Vergognati! Sposare un italiano, un carabiniere, quel Walcher! Nie in Leben! Mai e poi mai! Scordati la mutile, il Vater, la Oma, l'Opa, i Brüderle! La famiglia, la Heim, la Heimat, la Freundinnen, l'Untgen, il Ketzgen, la Kirche, il Chor. Du bist nicht mehr unsere Tochter, non sei più nostra figlia. Hure! Puttana, le gridò il padre come una furia. Ma che ne sa del Vater dell'amore? Lui che ha fatto 8 figli al buio senza vedere mai di Mutter nuda. Che ne sa dell'amore di Mutter, silenziosa e dolente che non ha mai baciato del Vater sulla bocca? Che ne sanno loro di Salvatore, così bello nella sua divisa nera, i perfetti malandrini, che le fa l'amore lentamente ma con spinte profonde, con quegli occhi di carbone acceso che bruciano come i fuochi dell'Erzieso, del Sacro Cuore, che dopo le copra di baci fitti sugli occhi, il collo, il seno, la pulisce delicatamente fra le cosce, non come quello zodico del Toni, che le sollevò la gonna e la prese alle spalle nel fienile come gli animali, 2 minuti e via senza neanche un bacio, il seme appiccicaticcio, il sangue, la puzza di letame, il dolore della prima volta che le durò 1 settimana. Salvatore del carabiniere, che le dice parole sottili, sottili. Amoruzzo, amoruzzo mio, le dice, che a volte neanche le capisce, ma che la sciolgono come la neve d'estate sulla cima dell'Ockfeiler, che la porta su piano piano dove non era mai salita e la fa scendere su una nuvola che le pare di volare. Che ne sanno loro? E allora... Lei, la Trude della Val di Witzfichtel, seguirà il suo cuore e sposerà Salvatore. Supererà ogni ostacolo, perché si sa, mica è facile sposarsi per un carabiniere, soprattutto con una tedesca. Permessi, autorizzazioni, certificato di buona condotta fino alla 7ª generazione, eccetera, eccetera. E poi non è che i suoi, quelli della Sicilia, siano propriamente contenti che il loro autore si sposi con la tedesca. Ma loro andranno avanti diritto. E lei conoscerà le palme, i limoni, il mare, fra i bagni in bikini, la vecchia suocera vedova nera di lutto stretto che la guarderà con orrore e i paesani come se la volessero mangiare a morsi. Vedrà crescere i suoi figli, Madele, Maddalena, come la nonna paterna, bionda più del miele, gli occhi saraceni della notte, e Berto, come il nonno paterno morto, perché in Sicilia ci tengono a rinnovare i nomi dei nonni, soprattutto se morti. Berto, dicevamo, capelli scuri e gli occhi verdi della Val di Vizza, Kvichtal, a giugno, che le ragazzine già lo guardano stralunate, ma lei, la Trudi, ha una spina dentro che la intristisce a poco, il sapore della neve in bocca e il silenzio del bosco, la parlata valga della sua valle, l'odore grasso di stalla, la madre silenziosa e dolente, il fater col Bauernschurz, il grembiulone blu come una seconda pelle, il gesto ampio della faccia sul fieno maturo, e l'uitore che sente quella spina nel petto della sua donna. Cos'hai? Le chiede. Non sei felice qui? Torniamo, gli dice lei. Semplicemente così, torniamo. E lui annuisce in silenzio e non ha bisogno di dire altro. E già a Trento, quando le montagne cominciano a chiudere le valli, lei sente qualcosa che si scioglie. A Bozen nasconde lacrime silenziose nei capelli dei figli addormentati, e fino a Sterzing, a occhi chiusi, già vede di Mutter, del fatere che le gridò ure, i brüder, le amiche, il campanile, il maso, e il cuore le scoppia nel petto. La vorranno ancora? L'avranno perdonata dopo tanti anni? Accetteranno la sua famiglia, l'italiano? E già risalgono in auto la valle verso Kematen, e lei si riempie il respiro di erba medica, e il cancello dello steccato è aperto, e del fater col Brown Schultz spacca la legna, e il cane corre a leccarle, e di Mutter esce con passo stanco, e sono immobili tutti come statue di ghiaccio per un tempo che è largo come la valle, e del fater si toglie lentamente il grembiule, e di Mutter guarda in silenzio la Trudile, i suoi figli e il carabiniere, e nessuno che parla. E di Mutter allora apre la porta e non la richiude. Entrate, dice, dopo un secolo, in un italiano bello, senza accenti, per rispetto di Tore, certo, e perché lei l'italiano l'ha studiato nella scuola di Mussolini, e se non lo parla è solo perché del fater non vuole. Siete tornati, dice, entrate, Gott sei Dank. Allora, questo è uno dei capitoli che mi piace di più, per certe espressioni veramente commoventi. Salvatore dal carabiniere che le dice parole sottili che lei a volte neanche capisce, ma che la sciolgono come la neve d'estate sulla cima del Hochfeiler, che la porta su piano piano dove non era mai salita e la fa scendere su una nuvola che le pare di volare. Sono parole molto belle, e questo libro ne ha molte di queste espressioni che secondo me sono proprio al limite della poesia. Questo mi salva dalle critiche che mi fanno. No, perché adesso c'è un'altra No, perché adesso ti spiego perché questo invece è uno dei capitoli che mi piace di meno, perché adesso francamente non ricordo se c'è un corrispettivo, però sembra così, dopo aver sentito questo, che l'italiano sia pronto, aperto, disponibile all'incontro, eccetera eccetera, invece gli altri poveretti sono chiusi, sono cose. Per fortuna che ci sono le traditrici. Questo meccanismo, Bruno, questo meccanismo, adesso lasciando il piano letterario, sì, e invece parlando della realtà, cioè questo meccanismo non è forse vicendevole? Cioè non c'è stato un richiamo alla compattezza anche da parte italiana? E purtroppo, questa è la mia idea, e purtroppo la parte italiana di traditrici e di traditori ne ha avuti molto, molti di meno. Non so se è chiara la domanda. Sì, sì, è chiara la domanda? Sì, ma il libro, come avrai letto, come penso, corre sul filo dell'ironia e anche dell'autoironia a volte. È sicuramente una cosa di quello che dice è giusta, E però io non vorrei mettere sulla linea del politicamente corretto, non era questa la mia intenzione. Avessi voluto fare una cosa di questo genere, avrei scritto qualcosa di diverso, avrei fatto un saggio sul Tirol, su tutte le pecche dell'uno e dell'altro, non è quella, non era quella la mia intenzione. La mia intenzione era quella di, ecco, hai detto bene, dei quadretti, che poi alla fine si riuniscono in un mosaico e danno un'idea di quello che erano gli italiani, non di come avrebbe dovuto essere la vita e politicamente corretto fra italiani e tedeschi. Noi eravamo esattamente così, pieni di pregiudizi, lo siamo ancora, tuttora. Non mi sembra scandaloso questa è la realtà, è la realtà che abbiamo vissuto. Per cui, se poi scendiamo sul pratico, sulla realtà, ecco, le traditrici, tu non so se hai conosciuto, forse hai conosciuto a Bolzano, dove già l'ambiente, diciamo, è più acculturato, ma noi abbiamo degli amici che hanno sposato delle tedesche delle valli. Era esattamente così, Lucio, era esattamente così, erano le traditrici. Un nostro amico, la famiglia, per 20 anni non ha parlato più con la figlia. Anche perché non c'era il processo inverso, erano le ragazze che sposavano i carabinieri, non erano le italiane che sposavano il Bauer, per cui non c'era questa reciprocità. Allora scattava il meccanismo che tu hai giustamente sottolineato, ma scattava a senso unico, cioè da parte della civiltà, diciamo, della cultura contadina sud tirolese, tedesca, diciamo, e scattavano questi meccanismi. Non, in italiano ce n'erano altri meccanismi che erano ancora più gravi, erano ancora più seri, non ci sono dubbi su questo. Ma rispetto alle traditrici e ai traditori, questa era la situazione che noi abbiamo vissuto. Poi ovviamente ogni esperienza è parziale, sicuramente avrai anche ragione. Volevo solamente dire che l'atteggiamento di chiusura verso l'altro, secondo me, è più reciproco di quanto appaia da questo capitolo in particolare, dove c'è il meridionale, i capelli neri, il cuore grande, gli occhi che lui vuole amare tutto il mondo, eccetera, eccetera. Invece poi da quell'altra parte lì ci sono quelli, cioè è vero, Bruno, d'altra parte i carabinieri si innamoravano facilmente dei sudtirolesi. Ma io capisco anche perché i sudtirolesi si innamoravano facilmente dei carabinieri, cioè degli italiani. No, ma il problema c'è, è stato anche elaborato nel libro che tu senz'altro conosci di Valsche, no? L'italiana è appunto questa storia, cioè la storia di un paese che si mette con un italiano e lì poi elabora tutte queste cose. La chiudiamo qui questa discussione? No, perché adesso c'è. Possiamo andare avanti. No, perché adesso non c'è nessuna preclusione. Perché adesso c'è un capitolo molto bello che Bruno dedica al suo paese natale, che si chiama Laurino. E curiosamente Laurino è anche il nome di una figura mitologica delle leggende dolomitiche, re Laurino. Laurino è. Come dire, se vogliamo essere retorici, Laurino è un luogo della nostalgia. Laurino è il luogo dove Bruno è nato e dove Bruno ha vissuto la sua infanzia, la sua adolescenza, e c'è poco da fare, siamo tutti attaccati al luogo dove siamo nati, al luogo che ci ha visti venire al mondo. In pochi anni scomparvero le lunghe carovane di asini che tornavano dai campi a sera, quando le rondini ciarliere cedevano il cielo a pipistrelli pazzi. È bello davvero il mio paese, gli olivi lo assediano da ogni lato, si intrufolano nelle antiche mura, si aggrappano ai dirupi precipiti, lo hanno ferito a morte di cemento e alluminio, anodizzato, ma il reticolo medievale lo innerva di orti e vicoli, come vene e arterie del mio stesso corpo. Ecco, credo che frasi come queste esprimano proprio il legame intimo che c'è, che tu poi ecco, prima di leggerlo, Bruno, tu qualcosa del genere l'hai provato anche verso Vipiteno? Sì, l'ho provato verso, lo provo, dottore. Lo provi lo verso provo, Vipiteno, dove, dove in realtà vivi? Però, come, come ho detto anche qui, onestamente, con sincerità, non è riuscito a prendermi del tutto, cioè nei precordi. Io ho amato molto Vipiteno, amo molto Vipiteno, tant'è che abbiamo deciso di restare a vivere a Vipiteno, e lo stesso vale per mia moglie. È restato, credo, il peccato di origine, il peccato di non essere nato a Vipiteno, di non aver introiettato quei valori primari che ti vengono solamente dall'essere nato, di aver sviluppato i valori primi. Ecco, e allora questo amore è immediato, questo amore è culturale, mi viene dall'elaborazione di vari altri valori, ma non è dentro col coltello piantato nelle viscere. Ecco, io amo molto Vipiteno, amo moltissimo Laurino, naturalmente, non lo so se amo più l'uno che l'altro, però in un modo diverso. Di Laurino non ho avuto bisogno di innamorarmi, era lì nel mio animo. Di Vipiteno mi sono dovuto innamorare, ed è stato un amore non neanche difficile, devo dire, perché è stato un amore quasi immediato, insomma. E però è stato appunto un innamoramento da adulto, non un innamoramento da bambino. Ecco, questo credo che sia la differenza essenziale, che non vale, credo, solo per me, ma vale per tutti. Laurino è un paese del Cilento, sì. Vicino Salerno, anzi vicino Elea, mi dicevi? Elea è vicina, sì, a 20 chilometri. Elea, l'odierna Velia? La patria di Parmenide, siamo tutti la patria di Parmenide, uno dei filosofi che io personalmente aborro di più nella storia della filosofia, essendo, come dire, Parmenide il sostenitore dell'idea dell'essere, e cioè che noi siamo in un certo modo e non possiamo non essere che in quel modo, non possiamo essere diversi. Tanto è vero che Parmenide, nella sua assurdità, arrivava persino a negare il movimento. Il movimento è un'illusione. Pensate un po' che castronerie si possono pensare dalle parti di Lovino. No. Prego. Questo è... Però voi ha avuto parecchi epigoni anche nella filosofia moderna, no? Questa idea concettuale. Nell'idealismo c'è molto di... Infatti l'idealismo è uno dei peggiori nemici. Non era, ecco, non era un cazzone, voglio dire. Va. E a proposito di questo, non so se chi legge La Repubblica, ieri c'era un bellissimo articolo, io vengo dal Cilento, nel Cilento si vive 10 anni di più. Trasferitevi nel Cilento perché lì è stata io purtroppo sono emigrato e non si vive 10 anni di più perché lì è nata l'elaborazione della dieta mediterranea da parte di Ansel Keys, il famoso medico. Io sono all'interno di Palinuro, un po' più del terzo. Però dico, se volete allungare la vostra vita, venite. Che bellissimo, tra l'altro. Ma al di là di questa cosa utilitaristica, così, sembra che Berlusconi abbia vissuto notte tempo, sia andato spesso in Cilento e aspiri a vivere appunto 120 anni. Se potrebbe non andare. Ma che cosa di quando partì da Laurino, il mio paese, profondo Cilento, il nostro mondo di prima era già tramontato, molto stecchito causa modernità fulminante. Feci allora la valigia e andai. Prima di me erano partiti già tutti. Quelli che la valigia gliela aveva lasciato il nonno, il padre, andato e tornato dall'America 60-70 anni addietro, la tirarono fuori spansata e polverosa. Quelli che non l'avevano misero 4 stracci in una tovaglia annodata, una forma di pecorino e un tozzo di pane, e videro il treno per la prima volta a destinazione Svizzera, Francia, Germania, Alta Italia. Il nord del boom economico reclamava lavoratori, al sud puzzava la fame. Chiedemmo braccia di lavoro. Arrivarono esseri umani, accuserà amaro Max Frisch. Così andò. L'esercito della miseria si mise in marcia. Non so come mai noi una valigia ce l'avessimo. Nei miei ricordi familiari non c'è nessun viaggio fuori dal confine del paese, a parte le mie trasferte a Napoli per studio. Ma lì mi bastava uno zainetto più che altro pieno di sigarette per gli amici e qualche provvista alimentare. Certo, io ero un fortunato, uno studiato che lassù in Alta Italia l'aspettava il posto fisso. Forse i miei la presero in prestito quella valigia. Ti raccomando, le parole gialle di mia madre. Ti raccomando. Fu come un ciclone, un vento nero di nubi che spazzò il nostro piccolo mondo antico, la civiltà contadina arcaica e arcana durata millenni e travolta in un soffio. In pochi anni scomparvero le lunghe carovane di asini che tornavano dai campi a sera quando le rondini ciarliere cedevano il cielo a pipistrelli pazzi. Non si seminò più il grano, i forni diventarono sterili di pane, i fiori azzurrini del lino non abbellirono più le campagne desolate. E fu deserto nel paese, non pialle di falegnami, incudini di fabbri, martellare di ciabattini, né ciutiare, ciacolare di donne davanti alle case, né più dalle colline aperte sulla via usciva a spasso per il vicolo il profumo del ragù di castrato, per i ravioloni di ricotto, i fusilli arrotolati sulle ioncole, i rametti di giunco. Le mare, le vecchie fattucchiere, brave a guarire i mali del corpo e dell'anima, cedettero ai medici. Erano capaci di ammaliare uomini e donne o farti morire quelle ianare, se volevano. Passa e ripassa, puoz passa morto, puoz perdere un neuro l'occhi e lo gianco non lo puoz ascià. Possa tu perdere il nero degli occhi e il bianco non lo possa trovare. Ed è rispacciato. I punzi, i recipienti di latto rame, lasciarono il posto a ciotole di plastica multicolore portate da furbi ambulanti napoletane. E la lessiera cenerata, la lescivia di cenere che faceva candido il corredo delle zite, si arrese alla chimica della miralanza di Calimero. Per le strade del paese non passò più il luparo ad esibire il suo crudele trofeo, la testa del lupo, fiero sterminatore di greggi. Ci prendeva 500 lire di premio per ogni bestia ammazzata, quel selvatico essere preistorico vestito di pelle di pecora. D'improvviso tutto l'antico seppe di vecchio e fu morto. Porto per vicoli passi perduti alla ricerca di qualcosa che mi stringe la gola. Siete forastiero, germanese? Mi chiede una vecchina nera di 1000 anni. Che chiate facendo per sto camposanto del paese? Mi parete una faccia conosciuta. Già, che ci vado facendo per questo camposanto di paese? No, non sono forestiero. In questo cimitero di paese cerco la terra dei miei morti. Un pezzo della mia storia che mi sono perso per strada. Ma come faccio a spiegare ad una zia di 1000 anni, inchiodata da una vita nel suo vicolo, che sono nato qui, ma vivo in un paese lontano da qui che si chiama Sterzing, Italia, dove però si parla veramente germanese? È bello, sì, sto paese, dico invece, che pace, che silenzio. Noi uorni arrivavo come un viento nero dallo monte e si portò a presso le voci delle vecchie, biascica svanita. Fu un vento nero arrivato dalla montagna che si portò via le voci dei vicoli. È bello davvero il mio paese. Gli olivi lo assedia da ogni lato, si intrufolano nelle antiche mura, si aggrappano ai dirupi precipiti. Lo hanno ferito a morte di cemento e alluminio anodizzato, ma il reticolo medievale lo innerva di orti e vicoli come vene d'arterie del mio stesso corpo. La torre normanna fa ancora buona guardia a sinistra, le rovine del castello longobardo levano denti cariati sulla sommità della collina. Riannodo pietra per pietra la trama della memoria, la stola del chierichetto, la salita ai campanili a menare campane, la caccia crudele a lucertole e cardellini, i tuffi nel fiume di ghiaccio, i cantoni dei baci rubati. Attento, attento, non fa bene al tuo cuore malandato questa tortura. Dacci un taglio. Le senti le fitte che ti strozzano il respiro, il tamburo che rulla nel petto, tututun, tututun, tutun, come la marcia di Radeschi. Non puoi rimetterci la pelle per un po' di nostalgia da vecchio rincoglionito, sempre lì a scartavetrare nervi scoperti, emozioni rugginose. È solo la solita stramaledetta trappola che dovresti conoscere bene ormai. Sei un uomo di mondo, hai attraversato frontiere, hai fatto e disfatto 100 volte la tua valigia andata e ritorno per farti cogliere in castagna. Già, diamoci un taglio, come se fosse facile. Gattacci sornioni mi osservano indifferenti tornare sui miei passi. Sono grossi come tigri della Malesia. Stravaccati, rubano spicchi neghittosi di sole, conficcati a fatica fra le settoie dei vicoli. Senza padrone a badagli, penso, ci saranno eserciti di topi in paese per sbarcare il lunario così ben pasciuti. Te la via ritto, che non c'era nessuno a sto paese, solo le spirite. Sospira la vecchina immobile come una cariatide, dandomi ora del tu. Sì, zia, me l'avevi già detto, che erano rimasti solo gli spiriti. Oh, mi ricordo, pigola. Venita, giù conosciuto, maronna mia. Tu sei Bruno, lo figlio di Rodolfo e Celestina. Madonna mia, ora ti ho riconosciuto, piccolo, ti ho riconosciuto. Tu sei Bruno, il figlio di Rodolfo e Celestina. Passa e ripassa. Ho un lungo passato teatrale. C'è scritto anche su questo libro. Passa muortu, puozzi perde l'uniru riluocchie e lu chiancu nullu puozzi ascià. Bellissimo. E chi dice che questo è un italianaccio bastardo e avvinazzato offende allora. Bruno. Questo è musica per le nostre orecchie. Ma scusa. Scusa, puozze perdere un niuro l'uocchi e lo bianco non lo può lasciare. Possa tu perdere il nero degli occhi e il bianco non lo possa trovare. Puoi mettere con quelle cazzo di parole che diceva il fortezzino ubriaco. Ma dai, su! Questa è pura poesia, guarda. Popolare. Senti Bruno, perché le parole gialle di mia madre? Perché gialle? No, questo è scritto su... Come possono essere gialle delle parole? Sì, beh, questa è una metafora. E perché gialle? Gialle, mo ti spiego. Mo ti spiego. Le parole gialle di mia madre. Le parole gialle di mia madre. Perché erano gialle le parole di mia madre? Aspetta. Abbiate un po' di pazienza che trovo le parole gialle così. Perché ce le ho qui, 113. Però sì, no, c'è un riferimento prima a questa. Beh, non lo trovo adesso. Le parole gialle di mia madre erano queste. Mia madre, credo, a posteriori fosse una donna infelice. Le tolsero, non parlava, era di poche parole. Non parlavano mai, a casa mia le parole non si sprecavano, non si sprecava neanche una parola. Poi le tossero 350 calcoli della C, 350, dicono 350 calcoli della cistifellea. E allora io pensai, saranno le parole di mia madre pietrificate nella sua pancia, tutte lì, gialle di bile. Ah. Gialle, ecco perché non c'è. Vedete che sentite che la cultura classica è la radice intellettuale della Magna Grecia, rivive in Bruno Durante e nella sua fatica letteraria combinata, e questa la trovo una cosa molto, molto bella, davvero molto bella, anche con una certa con un linguaggio sboccato, insomma, anche l'osteria, la taverna, cioè di dire le parolacce o di schiaffare lì un aggettivo o una definizione che poco hanno a che vedere con il mondo classico. Also Bruno, man kann über alles sprechen, nur nicht über eine Stunde. Conosci questo proverbio? No. Si può parlare di tutto, si può parlare soprattutto tranne che più di un'ora, diciamo così. Abbiamo iniziato alle 6 un minuto, io propongo di saltare l'ultimo, però di chiudere con questo noi siamo quelli che sono una serie di aforismi che Bruno ha scritto molto belli, molto indovinati, e che chiudono il libro, in un certo senso lo riassumono, e li leggiamo uno alla volta, una testa. Vuoi completare tu? Io. Comincio io? Sì. Noi siamo quelli che, se a Rimini ordini uno spritz o un radler, il cameriere si scompiscia dalle risate. Noi siamo quelli che a mezzogiorno suona la sirena invece della campana. Noi siamo sempre quelli che, se